ad alta voce. Maria Pajato legge Nevskij Prospekt, la prospettiva, di Nikolaj Vasilievich Gogol. Traduzione di Tommaso Landolfi. Non c'è niente di più bello della prospettiva, almeno a Pietroburgo. Per questa città la prospettiva è tutto. Di che cosa non brilla la strada regina della nostra capitale? Mi risulta che nessuno, dello squallido impiegatizio popolo che abita la città, non darebbe la prospettiva contro tutte le felicità di questo mondo. Non solo chi ha 25 anni d'età, un magnifico paio di baffi e un soprabito tagliato a puntino, ma anche chi gli cominciano a spuntare i peli bianchi sotto la bazza e ha una testa liscia come un piatto d'argento, anche costui va pazzo per la prospettiva. E le dame? Oh, alle dame! Piace anche di più la prospettiva. Ma già, a chi non piace? Fai appena tempo a uscire sulla prospettiva che senti subito un'aria di pura passeggiata. Anche avendo qualche affare urgente, uscendo in quella strada lo si dimentica senza fallo. Questo è l'unico posto dove la gente non va per necessità, dove non la spinge il bisogno e l'interesse, che trionfano in tutta Pietroburgo. Uno incontrato sulla prospettiva pare meno egoista che sulla Marskaya, sulla Grachavaya, sulla Litinaya, sulla Mianskaya o in altre strade dove l'avidità, l'interesse, il bisogno si riflettono invece nell'aspetto dei viandanti e di quelli che scarrozzano. La prospettiva è il luogo di convegno di tutta Pietroburgo. L'abitante della vecchia Pietroburgo o del quartiere di Viborg, che non abbia veduto da tanti anni un amico dei Peschi o della barriera moscovita, può essere sicuro che l'incontrerà qui senza fallo. Nessun annuario di indirizzi o posto di informazioni fornisce notizie tanto sicure quanto la prospettiva. Onnipotente prospettiva. Unica distrazione del povero che va a spasso per Pietroburgo. Come sono accuratamente scopati i suoi marciapiedi. E Dio, quanti piedi ci hanno lasciate le loro orme. Il rozzo, fangoso stivale del soldato in ritiro, sotto il cui peso il granito stesso par gemere. La scarpetta in miniatura, leggera come un vapore d'una giovane dama che volge la sua testina alle brillanti vetrine d'un negozio come il girasole si volge al sole. La tintinnante sciabola del tenentino, pieno di speranze, che graffia profondamente il selciato. Ogni cosa rimpasta in quella strada, la potenza della forza o la potenza della debolezza. Che rapida fantasmagoria vi si compie nel corso d'una sola giornata. Quanti cambiamenti subisce la prospettiva nel corso di sole 24 ore. Cominciamo dal bel mattino, quando tutta Pietroburgo odora di pani caldi appena sfornati ed è piena di vecchie in abiti e mantelli a brandelli che compiono le loro incursioni nelle chiese e a ridosso dei passanti compassionevoli. A quell'ora la prospettiva è vuota. I rubesti tenutari di botteghe e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie olandesi, ovvero si insaponano la degna guancia e bevono il caffè. I poveri si raccolgono davanti alle porte delle pasticcerie, dove un Ganimede insonnolito, che la sera prima volava come una mosca al cioccolato, comparso con una granata fra le mani e senza cravatta, getta loro pasticcini andati a male e rimasugli. Per la strada, allora, non c'è che la gente che ha qualcosa da fare. Talvolta la percorrono contadini russi che s'affrettano al lavoro, coi loro stivali imbrattati di calce che l'intero canale di Caterina, famoso per la pulizia delle sue acque, non sarebbe in grado di nettare. A quest'ora, di regola, non sta bene alle dame andare in giro, giacché il popolo russo ama usare espressioni tanto lampanti, quali le dame stesse non odono certo neppure a teatro. Talvolta è un impiegato sonnacchioso che arranca con la sua borsa sotto il braccio ove per la prospettiva passi il suo cammino verso l'ufficio. Si può senza esitazione affermare che a quest'ora, ossia fino alle 12, la prospettiva non costituisce per nessuno uno scopo, ma serve solo di mezzo. Essa gradatamente si riempie di personaggi che hanno le proprie occupazioni, le proprie preoccupazioni e i propri grattacapi, e ad essa non pensano punto. Un contadino russo discute per un pezzo da 10 copechi o per uno da 7 centesimi. I vecchi e le vecchie agitano le mani o parlano con se stessi, talvolta con gesti abbastanza evidenti, ma nessuno li ascolta né se ne fa beffe. Tranne forse i ragazzotti in camice di traliccio, che con bottiglie vuote e scarpe uscite allora dalle mani del calzolaio, corrono come il vento per la prospettiva. A quest'ora, qualunque cosa vi mettiate addosso, abbiate pure in capo una berretta al posto del cappello, vi vada magari fuori di posto la cravatta, nessuno vi farà attenzione. Alle 12 la prospettiva è invasa da ai di tutte le nazioni, coi loro pupilli in colli di batista. I Jones inglesi e i Lecoq francesi procedono sotto braccio ai pupilli, affidati alla loro paterna sollecitudine, e con acconcia gravità vanno loro spiegando come qualmente le vetrine delle botteghe servano giusto appunto a far conoscere per loro mezzo ciò che si trova nelle botteghe medesime. Le istitutrici, le pallide missis e le rose slave camminano maestosamente dietro le loro fragili, irrequiete ragazzette, ingiungendo loro di tenere una spalla su o di star diritte. A dirla in breve, a quest'ora la prospettiva è una prospettiva pedagogica. Ma man mano che si avvicinano le due, va diminuendo il numero degli istitutori, dei pedagoghi e dei ragazzi, finché questi ultimi vengono sostituiti dai loro solleciti genitori, i quali procedono sotto braccio alle loro variopinte, multicolori e isteriche amiche. A poco si uniscono alla compagnia tutti quelli che hanno ora terminato di attendere a occupazioni domestiche abbastanza importanti, come sarebbe quelli che hanno parlato col proprio medico del tempo che fa ed un fignolo spuntato loro sul naso, quelli che hanno preso informazioni della salute dei propri cavalli e figliuoli, i quali ultimi del resto promettono molto, quelli che hanno letto un annuncio e un importante articolo sul giornale circa coloro che arrivano e che partono, infine quelli che hanno bevuto una tazza di caffè o di tè. A questi s'uniscono poi coloro cui un'invidiabile sorte compartì la beata professione di funzionario commissione speciale, nonché i signori del Dipartimento straniero, i quali si distinguono per la dignità delle loro occupazioni e abitudini. Dio, quanti magnifici lavori e impieghi ci sono! Come essi elevano e inebriano l'anima! Ma, ahimè, io non sono impiegato e son perciò privo del raffinato commercio con tali capi. Tutto quanto possiate incontrare sulla prospettiva a quest'ora, tutto è pieno di bon ton. Uomini in soprabiti lunghi con le mani infilate nelle tasche, dame in giubbetti e cappelli di raso bianchi, celeste pallido, color di rosa. Incontrerete scopettoni unici, lasciati crescere con portentose arti fin oltre la cravatta. Scopettoni vellutati, serici, neri come lo zibellino e il carbone, ma ahimè, appartenenti soltanto a quelli del Dipartimento straniero. Ai funzionari d'altri dipartimenti la provvidenza non concesse scopettoni neri e si debbono, con loro estremo disappunto, accontentarsi di portarne dei fulvi. Incontrerete mustacchi portentosi che nessuna penna o pennello saprebbe descrivere, mustacchi cui è dedicata la miglior parte della vita, oggetto di lunghe sollecitudini diurne e notturne, mustacchi aspersi dei più squisiti profumi e aromi, unti dei più preziosi e rari balsami e pomate, mustacchi inviluppati per la notte in sottile carta velina, mustacchi cui è consacrata la più commovente devozione da parte dei loro proprietari e che i passanti invidiano. Mille fogge di cappelli, di abiti, di fazzoletti variopinti leggeri, cui talvolta son votate le cure di due interi giorni da parte delle loro proprietarie, abbagliano anche i ciechi sulla prospettiva. Par quasi che un oceano di farfalle si sia levato a un tratto dagli steli e ondeggi brillante nugolo su quegli scarabei neri che sono gli uomini. Incontrerete qui vitini quali non avete mai neppure sognati, sottili, esili, vitini non più grossi di un collo di bottiglia che, incontrandoli, vi tirate rispettosamente da parte per non urtarli come che sia con un malaccorto gomito. Il vostro cuore è invaso dallo spavento di poter in qualche maniera offendere, anche solo rifiatando sgraziatamente, un tale leggiadrissimo prodotto della natura e dell'arte. E che specie di maniche femminili si incontrano sulla prospettiva! Ah, che meraviglia! E se sono, in certo qual modo, somiglianti a una coppia di palloni aerostatici, così che pare che la dama stessa si librerebbe a un tratto nell'etere se non vi fosse il cavaliere a trattenerla, giacché è altrettanto facile e piacevole sollevare una dama per aria quanto portare alle labbra una coppa piena di champagne. In nessun luogo, incontrandosi, ci si inchina vicendevolmente con tanta nobiltà e disinvoltura come sulla prospettiva. Qui vi toccherà un sorriso unico, un sorriso al di sopra d'ogni arte, alcuna volta tale che vi sentirete fondere dalla gioia, un'altra volta tale che vi sentirete all'improvviso più in basso dell'erba dei campi e chinerete la testa. Una terza, che vi sentirete più in alto dell'aguglia dell'ammiragliato ed erigerete invece il capo. Qui incontrerete persone che discorrono del concerto o del tempo con straordinaria nobiltà e senso della propria dignità. Qui incontrerete un'infinità di caratteri e di tipi più o meno incomprensibili. Oh creatore! Che strani caratteri si incontrano sulla prospettiva! C'è una quantità di quei tipi che, imbattendosi in voi, senza fallo, vi guardano gli stivali e, quando passate oltre, si volgono per osservare le falde del vostro abito. Finora non mi riesce di capire come mai succede questo. Da prima ho pensato che fossero calzolai, ma così non era affatto. Essi per la massima parte sono impiegati in diversi uffici. Molti di loro sanno scrivere in modo ammirevole una relazione da una sezione all'altra, ovvero son gente che si occupa di passeggiate, della lettura, delle gazzette nei caffè, ossia per la massima parte gente come si deve. A quest'ora, beata, fra le due e le tre del pomeriggio, che può definirsi quella della capitale vagante, ha luogo la più importante fiera campionaria di tutte le migliori produzioni umane. Uno pone in mostra un elegante soprabito del miglior castoro, un altro un magnifico naso greco, un terzo un ammirevole paio di scopettoni, una quarta una coppia di gemme e uno stupefacente cappello, un quinto un anello con talismano all'elegante mignolo, una sesta un piedino incantevolmente calzato, un settimo una cravatta che suscita lo stupore, un ottavo un par di mustacchi che strappano l'ammirazione, ma suonano le tre. E la fiera volge al termine. La folla si dirada. Alle tre, nuovo cambiamento. La primavera scende a un tratto sulla prospettiva, la quale si copre tutta di impiegati nelle loro verdi uniformi. I famelici consiglieri, titolari di corte e di ogni altra razza, cercano in ogni maniera d'affrettare il passo. I giovani registratori di collegio s'affrettano invece a approfittare del tempo che ancora rimane per passeggiare sulla prospettiva con una mutria alla quale vuol mostrare che loro non sono affatto restati per 6 ore a tavolino. Ma i vecchi segretari di collegio, consiglieri titolari e di corte, camminano in fretta a testa bassa, hanno altro da fare che osservare i passanti, ancora non si sono completamente strappati alle loro abituali occupazioni. Nella loro testa c'è un grande imbroglio e un intero archivio di pratiche iniziate e non ancora condotte a termine. Essi per molto tempo ancora continuano a vedere, al posto delle insegne, la cartella con gli scartafacci e il volto pienotto del direttore della cancelleria. Dalle 4 la prospettiva è vuota. E sarebbe difficile incontrarvi anche un solo impiegato. Qualche sartina, uscendo da un negozio, la attraversa a passo svelto con una scatola in mano. Qualche forestiero originale, per cui tutte le ore fanno lo stesso. Qualche lunga allampanata inglese con un libricino fra le mani, qualche artigiano russo in soprabito di mezzo cotone con la barbetta stretta che vive tutta la sua vita alla svelta e in cui tutto si muove, le spalle, le braccia, le gambe, la testa, mentre se ne va sul marciapiede. Talvolta un basso mestierante e sulla prospettiva non incontrerete per ora altri. Ma non appena le tenebre cadono sulle case e sulle strade e il vigile s'arrampica sulla scala ad accendere i lampioni e dai bassi finestrini delle botteghe occhieggiano quelle stampe che non hanno il coraggio di mostrarsi durante il giorno, allora la prospettiva di nuovo s'anima e ricomincia il movimento. Sopravviene adesso quell'ora arcana, quando i lampioni prestano a ogni cosa una luce ingannevole e portentosa. Incontrerete ora una quantità di giovinotti, scapoli per lo più, in tiepidi soprabiti e mantelli. A quest'ora si sente per aria non so che scopo, o per meglio dire, qualcosa di simile a uno scopo, qualcosa di mirabolante. I passi di tutti s'affrettano e diventano per lo più assai ineguali. Ombre lunghe passano sulle mura e sul selciato e quasi raggiungono con le teste il ponte della polizia. I giovani registratori di governo, i segretari di governo e di collegio passeggiano a lungo, ma i vecchi registratori di collegio, i consiglieri titolari e di corte in massima parte se ne stanno a casa, sia perché questa è gente ammogliata, sia perché le cuoche tedesche che vivono con loro preparano d'assai buoni pranzetti. Rincontrerete a questo punto i rispettabili vecchi che con tanta dignità e stupefacente nobiltà hanno passeggiato sulla prospettiva verso le 2. E li vedrete che corrono al pari di giovani registratori di collegio allo scopo di buttare un occhio sotto al cappello d'una dama intravista da lontano, le cui spesse labbra e le cui guance impiastricciate di rossetto piacciono oltremodo a tanti passeggiatori, e più di tutti ai commessi artigiani o mercanti che sempre in soprabiti di foggia tedesca si vedono passeggiare in folla e quasi sempre sotto braccio.